Allora, buongiorno a tutti e benvenuti al corso con il Torah. Oggi studiamo Mishnah. Dopo una breve pausa causata dalla mancanza della voce, anche adesso non è totalmente tornata, però non ci si può esimere troppo dallo studio della Torah. Siamo arrivati al secondo capitolo del trattato Rosh Hashanah nella Mishnah e abbiamo detto nella scorsa lezione. Nell'ultima Mishnah che abbiamo studiato, che era la seconda, che in origine il Bet Din mandava dei segnali luminosi per comunicare l'avvenuta santificazione del mese, il Kiddush HaChodesh. Abbiamo approfondito questo tema e il perché la cosa invece è stata interrotta. Oggi però torniamo poi indietro nel tempo e parliamo nella Mishnah di come effettivamente avveniva questa interessante, diciamo così, comunicazione attraverso dei segnali luminosi. Vediamo un po' cosa dice la Mishnah. La Mishnah è la terza Mishnah del secondo capitolo, Perek Bet, Mishnah Gimel. Keitzad hayu masin masuot. In che maniera? Keitzad significa come? In che maniera? In che maniera effettivamente facevano questi segnali luminosi? Allora la Mishnah dice, Mevi'in portavano, facevano portare, klunzaot shel erez, significa dei pali, delle aste di legno d'acacia, erez, e cedro, legno di cedro, non cedro l'agrume, cedro del Libano, arukin, lunghi, delle lunghe. Dei lunghi, lunghe aste, diciamo così, che possono essere tenute in alto. E su queste lunghe aste cosa portavano? Portavano anche canim delle canne, quindi del legname più leggero, tipo canne da bambù, stile, azei shemen e dei rami presi da un albero che si chiama etz shemen. Cosa è etz shemen? Etz shemen non è in realtà l'olivo, non è l'olio, l'albero dal quale si ottiene il shemen, cioè l'olio d'oliva, ma è un albero che ha una resina che funge da, Colla. come? Colla. Non da colla, ma da quasi un tipo di carburante, diciamo, una cosa che è molto, come Carburante. dire, Carburante, sì. qual è la parola? È Infiammabile. infiammabile, è un infiammabile, non è chiarissimo. A quale albero ci si Riferisce. riferisca? C'è anche chi sostiene che si tratta del pino o di qualche tipo di qualche specie del pino che ha una resina Simbolo. che può essere usata per questo. E ci sono diverse opinioni, e quindi non entro adesso, non essendo un esperto di botanica, non sarò io a decidere tra gli esperti, e ognuno potrà anche fare una ricerca se vuole per capire un po' meglio. Comunque, questi sono dei rami che ci aiutano per l'infiammazione, per l'illuminazione. Inoltre, un altro elemento che si portava sempre per contribuire a questo aspetto erano Neoret shel Pishtan. Neoret sono i frantumi, quello che rimane, per esempio, quando si fa, non la segatura proprio, pezzi un po' più grandi, che però provengono, come? Residui dei tagli. Sì, una sorta di residui, però in realtà qui parliamo di residui che vengono dalle piante del lino, perché evidentemente quando facevano sgrullare o si muovevano le piante del lino, allora qualcosa, diciamo, qualcosa si toglie, qualcosa cade giù dalla pianta e questi elementi qui, questi frantumi qui, possono essere usati anche per, appunto, sono infiammabili, aiutano a fare fuoco. Tutto questo si legava insieme, vediamo la parola per legare, che forse dovreste riconoscere, ve korech. Korech, venivano legati insieme bimeshicha, con una corda. Quindi korech, che noi conosciamo dalla tela del Seder, in realtà significa legare insieme. Quindi korech bimeshicha, tutto ciò veniva legato insieme. Ok? Veolè le roshahar, chi teneva questa asta saliva sopra al monte E salendo sopra il monte, Umatzit Bahen et Aur li illuminava con il fuoco, su tutti questi elementi, il plurale è riferito a tutti questi elementi insieme, ovviamente legati insieme come una torcia, e molto alta perché su questa lunga asta, e cosa faceva? Un molich umevi, andava e veniva, cioè lo dimenava avanti e indietro, e anche umale umorid, anche sopra e sotto, quindi lo dimenava avanti e indietro, a destra e a sinistra o avanti e indietro, e anche sopra e sotto, quindi in tutte le direzioni. Perché? Perché chi lo veda sappia che si tratta proprio di questo e non dica, ah no, Un incendio. è una stella Sì, o è un quello che incendio o pensavo. è qualcosa. No, ma doveva essere fatto in una maniera abbastanza precisa e particolare perché Un si momento di riconosca che riconoscimento. era proprio questo di cui si trattava. E questo veniva comunicato a chi? A Cehuroe et Haverò. Lui continuava a fare questi movimenti fino al momento in cui vedeva il suo prossimo, cioè un'altra persona, con un simile La staffetta. strumento su un altro monte, su un'altra collina più in là, e quando vedeva che quello aveva visto e quindi aveva anche lui acceso la torcia e aveva iniziato a fare anche lui il segnale luminoso, aveva fatto il suo lavoro. E così l'altro aspettava che il terzo lo vedesse e illuminasse, e il terzo e il quarto e così via. E così si spargeva la comunicazione. Nella prossima Mishnah vedremo esattamente fino a che punto arrivava questo. Sto facendo questa domanda Chi dove ci agganciamo al discorso dell'altra volta. Chi allora, faceva? domanda, sì? Sì, chi faceva queste cose qua? Erano dei Sì. privati o erano degli addetti? E la legna era privata o Erano era inviati dal Bettin. inviata? Per cui anche la legna era, diciamo, pubblica, venivano usati soldi pubblici È un'ottima osservazione. Teoricamente direi di sì, che erano usati soldi pubblici, cioè era una cosa, erano degli addetti da istituzionale, certo. parte, era una cosa istituzionale, anche se vediamo nella prossima Mishnah che c'era un luogo in cui c'è un elemento di privati. Ora vediamo. Ottima osservazione. E anche alla comunità virtuale invito, se avete delle domande, potete porle nei commenti. Ora, nella quarta Mishnah, appunto, vengono indicati i punti geografici in cui avvenivano in cui venivano elevati e dimostrati questi segnali di, non di fumo, ma di fuoco. Allora, vediamo un po'. Umeain, la Mishnah si pone appunto la domanda retorica: da dove Ayuma Sin Masuot, da dove si facevano illuminare questi fuochi e queste illuminazioni e queste segnalazioni di fuoco? Mehara Mishnah, dal monte che si chiama Har HaMishcha, qualcuno sa che monte è Har HaMishcha? Allora, innanzitutto cosa vuol dire Mishcha? Le Moshcha Bahem, Shemen HaMishcha, l'olio d'unzione, ungere Mishcha, anche Mashiach viene da questa parola. Har HaMishcha è il monte delle olive, è un altro nome per il monte delle olive, perché da lì si ottiene l'olio per l'unzione. Ok? Quindi Ara Mishkan, quindi Quindi questo dal era Monte degli Olivi. il primo monte da cui si partiva, è il monte vicino a Gerusalemme, chiaramente immediatamente fuori le mura praticamente dell'Arabait, del monte del Tempio, e su questo monte per prima si partiva con le segnalazioni luminose, le segnalazioni luminose. Da qui poi il prossimo punto, il prossimo monte o la prossima collina era quella chiamata Sarteva, Meara Mishka, quindi le Sarteva, Mi Sarteva Grippina, e questo è sicuramente nominato per il re Agrippa, che era un nome romano, però è un re dei Hasmonei, che erano molto legati ai romani e influenzati dalla cultura greco-romana. Da Agrippina a Havran, come la Mishnah ci sta dicendo, mi grappina le Havran, me Havran le Bet Biltin, da Havran a Bet Biltin, e da Bet Biltin sarebbe stato l'ultimo luogo in Eretz Israel in cui si faceva l'illuminazione, il segnale, e questo segnale veniva poi visto fino ai luoghi che ora chiameremo Golà. La Golà significa la diaspora e ci si riferisce in maniera specifica alla diaspora babilonese. Quindi Quindi, che cosa si faceva a questo punto? Da Bet Biltin, dice la Mishnah, lo Zazu Misham non si muovevano gli addetti da Bet Biltin, da quell'ultima collina o monte, Ela, Molich, Umevi, Umale, Umorid, continuava, proseguiva, andava avanti a fare i movimenti, le dimenazioni, avanti, indietro, sopra e sotto, Acheyaroe Kol Hagola Lefanav, finché non vedeva intera diaspora davanti a lui, Kimdorat Esh, che sembrava come un grande falò. Cosa significa? Significa che da qui si poteva far arrivare la segnalazione a una delle città importanti della diaspora babilonese, cioè Pompedita. E cosa facevano a Pompedita? E qui subentra il discorso dei privati. Per comunicare a noi in Israele che il messaggio è stato ricevuto, tutti gli ebrei, ogni casa, salivano sul tetto e facevano un segnale di fuoco su ogni casa. In questo modo si comunicava che era stato ricevuto il messaggio, che era stato capito soprattutto il messaggio, e a loro volta questa cosa faceva sì che molti altri delle comunità ancora più lontane potevano capire che era stato santificato Rosh Chodesh, che è stato fissato il nuovo mese. Che era Tishri e Nissan solo per tutti i mesi. Per quali mesi si facevano i segnali di fumo? Tishri e Nissan, abbiamo detto, non No, ricordo male. per tutti i Per mesi. sì. Abbiamo detto che gli inviati del Beit Din, che andavano personalmente alle comunità, era Sholchim Shluchim, che si mandano dei messaggeri. Questo era Con la dispensa in caso di sabato. Nissan e Tishri, no? La dispensa non era per questo. Per cosa era la dispensa? No, in caso di c'erano le feste. Per cosa era la dispensa? Allora, questo è l'esame, ragazzi. Il La dispensa del sabato. fatto di poter andare fuori dal luogo, normalmente di Shabbat Sì. possiamo camminare solo fino a un Sì. certo Anche limite, invece abbiamo detto che è permesso andare oltre questo limite. accompagnatori, eccetera. Perché cosa? Non per andare a comunicare che era stato fatto lo scotch, per Per andare a testimoniare che abbiamo visto la nuova luna. È un altro testimonianza. contesto. Un altro contesto, sono due cose diverse. Ok? Allora, appunto, vediamo nei commentatori della Mishnah che dicono che la Golà, la diaspora, è un riferimento a Pompedita, che è una città importante della Babilonia, Ma della fino lì, diaspora babilonese. Fino a lì si riusciva a farsi vedere. E nella Gemara si parla anche di altre comunità intorno che avevano modo di far parte di questa comunicazione. E appunto, come dicevo, perché Kimdorat Esh? Perché sembrava come un grande falò di fuoco? Perché ognuno prendeva una torcia e saliva sul proprio tetto, come di nuovo una doppia. Un doppio senso, sono Sì. due aspetti in questo salire sul tetto: uno che abbiamo ricevuto la comunicazione e l'altro Di che continuare, aiuta a di farlo far continuare. continuare ad andare avanti il messaggio. Allora, questa era la maniera in cui si comunicava quando ancora si faceva questo tipo di comunicazione con i segnali luminosi. Nella prossima Mishnah e le successive vedremo invece la descrizione di come avveniva l'accoglimento dei potenziali testimoni che hanno visto la nuova luna, di come, dove venivano portati, come venivano trattati e come venivano interrogati sulla loro testimonianza, eccetera, e come si arrivava poi a conclusione di santificare o meno il mese in base alla loro testimonianza. E questo invece lo approfondiremo nella prossima puntata di Mishnah, quando andremo verso la Mishnah numero 5, Mishnah Hei, del capitolo Bet, secondo capitolo di Rosh Hashanah. Grazie di aver partecipato. Buona giornata. Allora, siamo al video.